Sì. Ecco, dimmi tutto, dimmi subito tutto, di che cosa ho sbagliato. Si chiama società? No, sono Milena Naldi, presidente della società che gestisce Canali di Bologna. Quindi ecco. Canali di Bologna. Canali di Bologna. Esatto. Ok. Sì. E cosa fanno? Chi sono? Dove sono i canali di Bologna e che cosa fanno? Quanti e perché sono? C'è una perché società c'è? Chiamata perché c'è? Canali di Bologna? I canali di Bologna sono quel reticolo antico di 800 anni che continua a dare acqua alla città di Bologna dalla chiusa di San Rufillo e dalla chiusa di Casalecchio. E per una invenzione, una stravolgente idea, una grande capacità dei nostri antenati nel Medioevo, che non avendo dei rii o dei torrenti abbastanza ampi da cui accedere l'acqua, quando la città comincia dal Medioevo a essere più popolata, l'acquedotto romano era andato in disfacimento, il torrente d'Aposa era l'unica via, insomma, quella che va lungo via San Mamolo e via di Roncrio, tombato anch'esso. Non avendo acqua, si chiedono come facciamo senza acqua per irrigare i campi, senza acqua per fare poi quello che succederà ai mulini, e inventano quello che per la città di Bologna è la cosa più caratteristica e meno conosciuta, cioè si inventano la canalizzazione artificiale che porta acqua a Bologna, costruendo due chiuse, prima quella di San Rufillo e poi quella di Casalecchio, dal quale il canale di Savena dal torrente Savena e il canale di Reno dal fiume Reno portano acqua in città. Ma dunque quanto sono vecchie queste chiuse? Beh, la chiusa di San Rufillo è la più vecchia e aveva cominciato a fare i suoi primi le sue prime palificazioni della chiesina in via Massarenti, che si chiama appunto la chiesina di Savena, e perché è contestuale alla costruzione dei torresotti della Torre del Mille per dare acqua. In quel periodo lì che la città si espande, costruisce i torresotti e aveva bisogno d'acqua, e quindi comincia dal torrente Savena in quegli anni, e poi invece va dove adesso è la chiusa di San Rufillo, ovvero il ponte di via Toscana, mm-hmm. dove voi sapete che sulla destra vedete la chiusa e sulla sinistra vedete la casa del custode appena restaurata. Ieri c'è stata la giornata mondiale del patrimonio ed eravamo lì con tantissime persone che guardavano un'archeologia vivente, perché ovviamente sono delle infrastrutture idrauliche antiche, ma che continuano a essere vive, perché continuano a gestire l'acqua, e tutti i giorni noi questo facciamo. Quindi 1221 circa quella di San Rufillo, e poi anche in quegli anni o poco dopo quella meravigliosa della chiusa di Casalecchio, che è poi ha un aspetto settecentesco ed è patrimonio UNESCO, perlomeno una delle infrastrutture più belle europee dell'acqua, delle chiuse. E quindi insomma questi canali hanno cominciato a costruirli artificialmente, quindi un fiume è un torrente e li gestisce il demanio. I canali artificiali della città di Bologna, che la fanno unica perché sono circa un 60 chilometri di canali sotterranei adesso, ma nel Medioevo assolutamente visibili nelle strade, erano strade con il canale, con gli affacci e con quella infrastruttura meravigliosa che erano i mulini, e che quindi paradossalmente erano fonte di ricchezza proprio perché c'erano i mulini. La potenza dell'acqua generava questo tipo di presenza articolatissima, facevano di tutti, facevano le carte, facevano le pelli, macinavano il grano, la seta, potete immaginare. Quindi questo innesto tra il canale di Reno e il canale di Savena andavano poi a confluire nell'incrocio col torrente Aposa, che proprio sta in mezzo alla città, e tutti bellamente da via Capodilucca in poi andavano a confluire al canale Navile, che è di giurisdizione anche questa demaniale. Si chiama canale impropriamente perché sarebbe non lo governiamo noi ma il demanio, ma insomma era navigabile, e come voi sapete navigabile e col porto. Quindi noi continuiamo a fare questa gestione delle acque, che è estremamente importante, ma soprattutto però non è più nell'immaginario collettivo, perché perché sono stati chiusi, perché sono stati tombati, sono stati coperti, e allora li vedete scoperti dalla chiusa per quanto riguarda, non so, il canale di Reno che viaggia scoperto, poi dopo però scompare in via Sabotino, va giù, certo, e lo vedete ricomparire lì alla grada, dove abbiamo l'opificio della grada, e invito tutti a vederlo lì a un pezzettino scoperto, poi lo rivediamo solo nella Star, che è la finestrella di via Piella, il guazzatoio è un poco in capo di lui, che è diventato una veramente una star. È diventato un'attrazione turistica incredibile, cioè, c'è la fila anche di notte, c'è la fila anche di notte, tutti i ragazzini mi divelgono ogni tanto per non sapere quale capriccio del destino, la porticina, la finestrella, che me l'hanno buttata di nuovo nel canale, adesso è senza niente, ma così per così simpaticone, però insomma sì, è questo immaginario, quindi perché è tua la finestrella, cioè è di tua proprietà. Mio non è niente al mondo se non il mio corpo, però in qualche modo quella finestrella era una finestrella costruita nel muro che faceva vedere anticamente, quando non c'erano ancora i rilevatori dell'acqua che adesso abbiamo, e quindi sappiamo benissimo quando l'acqua c'è, quando dobbiamo metterla, quando dobbiamo toglierla, mentre loro serviva per guardare a che livello era il canale, esatto, ho capito. C'è l'acqua, non c'è l'acqua. Wow. E, questo è un pochino in maniera semplice l'infrastruttura dei canali, che è estremamente complessa, e come dicevo, semplicemente dal dopoguerra qua, o meglio dalla fine dell'Ottocento, quando i mulini cominciano a non essere più la forza punzante, diciamo, le nostre industrie, è arrivata l'energia elettrica, le cose cambiano e i canali diventano com'è nell'immaginario che adesso noi cerchiamo di rendere positivo, erano brutti, puzzolenti, cattivi, quindi venivano ovviamente coperti dal progresso, si distruggevano le mura, si distruggevano anche negli anni, e poi le torri, ma anche si coprivano, e quindi dal primo Novecento al secondo dopoguerra Dozza in primis comincia a dire i canali puzzano, sono fogne, e quindi vanno coperti, e coperti vuol dire con strade, palazzi, eccetera. Via Rivareno è la più emblematica, c'è un bel parcheggio sopra, e questo ha limitato la comprensione anche dell'immaginario di quanto sia stato importante, e continua ad esserlo, il reticolo cittadino delle acque. Non c'è città al mondo che abbia un'infrastruttura come quella dei portici, che è stata, diciamo, imposta dal comune, quindi ha creato questa diffusione di questi 40 rotti eccetera eccetera chilometri, ma non c'è neanche nessuna città che abbia un reticolo così diffuso di canali costruiti artificialmente dalla mano dell'uomo, che abbiano unito la ricchezza di queste città attraverso questo. Quindi due scamotaggi che la rendono unica, uno, come dire, adesso cerchiamo di renderlo più diciamo patrimonio comune, e quindi la finestrella o tante iniziative che faremo come quella dei sotterranei di Bologna che vi volevo anticipare. Ok, però prima ti devo interrompere per una cosa importantissima, ovvero il vocale di Marco Roma. Marco Roma è questo fantastico nostro ascoltatore che ogni giorno manda un vocale alla radio, e quello di oggi fa così. Buongiorno, se descriverò il mio destino, io descriverò il mio coraggio che ho, perché con te combatterò, perché tu combatterai le mie battaglie. Da Marco Roma, buongiorno a tutti voi. È una sorta di telenovela cantata, per cui ultimamente mi sa che la sua fidanzata l'ha lasciato, e dunque sta combattendo la battaglia per riaverla, e vedremo come va a finire. Comunque non poteva mancare nella puntata di Coxo Spaziale di oggi. Ritorniamo a questi canali, e dunque che cosa succede a questi canali? Che verranno riscoperti di nuovo alcuni, giusto? Ma a che fare con voi questa decisione oppure no? Dunque stai per... Sto parlando del fatto che un pezzo di via Rivareno verrà scoperta di nuovo. No. Allora io perché ci passa il tram? Dice, ma va. Perché ci passa il tram, e c'è un'ipotesi del comune che vede il passaggio del tram come occasione per poter rifare tutto, ovviamente, e poi dopo chiedersi se è opportuno ricoprire o lasciare scoperto. Io posso solo dirvi che è di tutti i canali l'unico pezzo possibilmente apribile è quello di via Rivareno, okay, che potenzialmente va dall'opificio della Grada dove siamo noi, mm-hmm, che c'è parcheggio, attraversa via San Felice e va fino a Marconi. Fino a via Marconi. Questo è l'asse, diciamo che da via Marconi poi va sotto un po' in diagonale, sotto arriva in via Piella. Sì, sì, okay, si va alla chiesina della Pioggia, sì, e poi gira, okay, e va. Sì, sì, sì, sì. Vabbè, continua praticamente dritto. Sì, sì. E okay, quindi posso dire che è l'unico apribile, certo, bisogna essere bravi a gestire l'apertura di un canale, perché ovviamente l'acqua è di nuovo pulita, si può, di lì, voglio dire, è come quella del fiume Reno, arriva dal fiume Reno, quindi non è che abbia degli, certo, inquinanti, se non quelli che ci sono nel fiume. L'acqua non è da bere, ma non è sporco, ormai è risanato e quindi è un'acqua pulita. E certo bisogna avere una sorta di idrocivismo avanzato, perché no, io immagino che quando c'hai un canale aperto l'unica cosa che fai è ci butti, sì, no, roba infatti dentro, io, capito? Abitavo vicino alla Certosa e mi ricordo una volta vedevo un muratore che buttava la calce direttamente, cioè, anziché buttarla, cioè, insomma ripuliva il suo secchio buttandolo nel fiume. Troviamo di tutto. Dall'altra parte del fiume gli ho urlato: ma ti sembra una cosa da fare? Troviamo di tutto. E invece il canale non è più né brutto né sporco né cattivo, certo, ma è un elemento fondamentale. Anche l'acqua nelle città è una risorsa, come voi sapete, impagabile, sia per ecosistema che anche per bellezza. Sì, e che aiuta anche la temperatura della città, fra l'altro. Noi gestiamo l'afflusso, capito? Quindi, per esempio, tutti chiedono: ma a maggio c'è stata questa devastante pioggia. Ah, sì, no? Certo. A maggio. Ah, no, infatti volevo arrivare anche lì. Vabbè, perché lo so. Maggio è successa una cosa terrificante dal punto di vista di quantità d'acqua. E la città di Bologna, con questo sistema, la città, non dove sono successe le catastrofi, certo, ovviamente dove il terreno è più basso, dove i terreni di bonifica, quindi c'è un sistema diverso. Ma la città di Bologna, con questo sistema, non è mai andata sott'acqua, non ha mai avuto problemi. Certo. Perché? Perché ovviamente quando abbiamo un allarme meteo di forte pioggia, noi interrompiamo l'afflusso dell'acqua verso la città. Cioè mettiamo a disposizione tutti i reticoli dei canali per per fare da catino, diciamo, di tutte le acque meteoriche, quelle delle grondaie, e quindi dopodiché riapriamo per avere la frusta. Certo. Il nostro problema è quando l'acqua non c'è. Quando l'acqua non c'è, come adesso, siamo in secca, il canale Savena è in secca perché il torrente Savena è un aggetto ridicolo di acqua, perché siamo già dopo l'estate in allarme di siccità. Ecco, quella non la possiamo gestire. E quindi posso dire che a maggio, ma soprattutto alla seconda ondata di maggio, siamo arrivati ad avere un riempimento dei nostri canali quasi al limite, okay, e non era mai successo. Comunque, per dire che siamo attivi, e quindi questo ha salvato e continuerà a salvare la nostra città da esondazioni possibili, quindi siamo buoni. 333 180 94 94 se avete delle domande sui canali di Bologna da fare alla presidente Milena Naldi. Con piacere. Dopodiché possiamo dire che questi canali, alla loro riscoperta, succede una cosa che succede solo in ottobre, ovvero nelle azioni di manutenzione i canali come si possono pulire? Mettendoli in secca, non la secca, diciamo, per l'allarme meteorologico, certo, ma abbiamo sempre in programma a ottobre un 15, 20, 25 giorni di messa in secca. Dopodiché li mettiamo in secca e andiamo a vedere cosa ha buttato la gente, lo andiamo a togliere, lo andiamo a pulire, andiamo a ripristinare argini, verifichiamo le cose, insomma, quindi è un lavoro di manutenzione. Certo. Troviamo di tutto, buttiamo via e buonanotte. E allora però in questa occasione, è da un po' di pochi anni, ma insomma questa è l'occasione, che portiamo la gente a visitare nei sotterranei i canali in maniera straordinaria, perché si può andare, si può camminare nei canali e avere una prospettiva della città totalmente nuova e diversa. E quindi è per questo che mi fa piacere essere ospite tu, Stefano, perché possiamo dire che ad ottobre dal 12 al 22 di ottobre iniziano le visite guidate, dovete andare sul www.canale di Bologna e prenotarvi nel canale Reno, e quindi andremo al guazzatoio di Via Righi. Si chiama così perché il guazzatoio è una discesa che andava a, diciamo, a favore del dare da bere a tutti gli animali che facevano parte del mercato in Piazza d'Agosto antico, e quindi andavano lì a bere l'acqua, e quindi da qui il nome guazzatoio, e quindi da lì scenderemo e andremo a piedi sotto la finestrella di Via Piella, andremo nel giro della morte, che è un angolo insomma particolare, arriveremo a Capodilucca e entreremo anche nei sotterranei a sinistra, e questa per le visite. Ed è bello, cioè l'ho fatto tante volte, però è una prospettiva da sotto veramente diversa, magica e molto interessante. Ma la vera novità di quest'anno è che dal 26 ottobre invece all'1 di novembre andremo alla parte sotterranea dell'ex porto, dove non abbiamo mai portato nessuno. Oh, wow. Yes, mai portato nessuno, e daremo l'opportunità di vedere per la prima volta quello che era ovviamente il nostro glorioso porto, quello che andava poi al canale Navile, che è stato totalmente demolito intorno al 1934, e andare a vedere insomma la salare, e poi entrare dentro il grande magazzino del sale e dei grani, e poi entrare al canale Cavaticcio, perché quello si chiama canale Cavaticcio, quello che va dietro al Mambo, quello che vedete diciamo dal giardino del Mambo con i totem di pomodoro sulla vostra destra, lì c'è dove c'è la figura di la stella di Zorro, insomma in quella parte lì è una, come dire, un artificio, quell'acqua è finta mentre sotto scorre il canale. Ecco, questa volta veramente vedremo insomma un'arcata enorme dove le imbarcazioni, ci sono ancora gli attacchi delle imbarcazioni, l'antico ponte del Ranuzzino, e questa è una cosa particolare che quest'anno abbiamo deciso di far vedere, ed è una novità assoluta, e quindi questo è quello che vogliamo fantastico fare. E questo quando sarà? È detto dal 26 di ottobre al 1 di novembre, sabato e domenica per tanti, la mattina per le scuole, poi due turni dalle 19 alle 21, ma trovate tutto meglio di quello che io posso dirvi su www.canaledibologna.it. Ok, fantastico. Yes. Dopodiché abbiamo Lucia Fontanelli e Olivia Teglia, che sono tornate come ormai la terza volta in realtà. Sì, poi sposto il comune. Un pochino. Eccolo. Dai. Per la terza volta siete tornate a raccontarci che riparte Exit. Ah, siamo sempre qui alla fine. Praticamente ancora. Siete sempre qui. Infatti, a che anno siamo di Exit? Allora, siamo ormai al quinto. Wow. Sì. La seconda edizione consecutiva ai Prati di Caprara, però. Ok. A proposito di luoghi nascosti. Sì, no, che fra l'altro secondo me avete anche da raccontarvi, sì, perché sì, se non sbaglio c'è un canale che passa dietro ai Prati il di Caprara. Il Torrente Ravone. Sì. Sì, il Torrente Ravone è un'altra cosa, perché è l'unica cosa che è esondato proprio, esatto, per il fatto di non essere un canale. È il canale Ravone, dico bene? No? Neanche. Si chiama? Come si chiama quel canale? Riportiamo il microfono. Se lo mettete in mezzo vi sentiamo tutti. Okay. Che cosa? Il canale che passa lungo via del Chiù. Del Chiù, come si chiama? Canale Ravone. Sì, canale Ravone, insomma, ma non è un canale. Non è un canale. È un torrente. Ah, quello è il torrente. Allora, è il torrente. Allora, okay. Perché il torrente è successo quello? Perché è un torrente di quelli che vanno piccolini, o meglio. Che corrono. Sì, che corrono in maniera. Però è come i fiumi, torrente e fiume sono. Mm-hmm. E quindi il Ravone ha avuto questo. Esondazione, perché è esplosa dentro. Sì, poi è esploso dentro un negozio, che è una roba. Sì, che per lì c'era una specie di, insomma. Ok. E noi, per esempio, avevamo invece il canale Ghisigliera che gli sta sotto, mm-hmm, e quindi correva sotto, anche noi siamo stati travolti dal, perché non era mai successo che noi siamo sotto, mm-hmm, e questo canale che è in un cassone, insomma, era sopra, ma non era mai andato giù. Quindi noi ci siamo trovati dei rami, delle scorie, diciamo così, e sono arrivate dove? Sono arrivate al nostro sgrigliatore del canale di Reno, poi alla fine. Quindi abbiamo avuto anche noi tantissimi danni per questa eccezionalità torrentizia. Comunque sì. Allora non era sbagliato, siamo lì. Ok. No, vabbè, Prati di Caprara, diceva Olivia, certo, appunto, un luogo particolare anche questo, perché è una risorsa ecosistemica anche molto importante per la città, che ha una storia molto stratificata, e diciamo nella quale, nel quale luogo, che adesso è a tutti gli effetti un bosco urbano, noi in compagnia e in collaborazione con il Comitato Rigenerazione Non Speculazione, che dal 2017 un po', diciamo, si occupa di difendere questo spazio da varie minacce per questo spazio, che invece pensiamo che debba essere conservato, protetto. Ti interrompo immediatamente perché non ti devo censurare, non ti preoccupare, perché sono, ho notato che il mio orologio dice 20:30 e dunque è l'ora delle pubblicità delle 20:30, perché altrimenti io vengo minacciato. Ho avuto paura. Per cui eccoci qua. Ed eccoci ritornati in diretta con Milena Naldi dell'Opificio delle Acque, con Lucia Fontanelli e Olivia Teglia di Exit, e anche di, com'è che si chiama la vostra associazione? Non me la ricordo più. ASAP. Bravissimo. As soon as possible. As slow as possible. Chissà. Ok. e siamo qui appunto per raccontarvi che dal 29 settembre inaugura Exit, la sesta edizione, abbiamo quinta. Vabbè, io la memoria breve non ce l'ho, non ho mia che mi aiuta, anzi la salutiamo e la baciamo, e appunto dal 29 settembre, che è venerdì. Avete un orario di inaugurazione un po' strano, alle 13, ma diciamo che siccome appunto il nostro è un festival molto conviviale, anche perché sono soprattutto pratiche partecipate, workshop, abbiamo voluto lanciare, diciamo, come orario di inaugurazione il pranzo, per appunto chi vuole raggiungerci a quell'ora, diciamo, incontrarsi e iniziare ad abitare lo spazio del bosco, dei prati, insieme, in un momento appunto di condivisione così molto informale. E, i poi, giorni del festival sono 29, 30, 1 ottobre, e poi c'è un gap e si ritorna. E ci si saluta il 6 ottobre. Esatto, beh, quest'anno siamo state più coerenti però da un punto di vista di calendario, perché abbiamo concentrato, diciamo, le attività al bosco in questo weekend lungo da venerdì, e ci saranno 5 artiste e collettivi che, diciamo, si muovono in un terreno ibrido tra performance, sound art, multimedia e pratiche partecipate, appunto collettive, e che abbiamo appunto invitato per attraversare collettivamente questo paesaggio così particolare e in qualche modo appunto diventare parte di questa simbiosi che già è, diciamo, poi la vita dell'ecosistema del bosco, che, come dicevamo prima, è un ambiente estremamente stratificato sia per storia ma proprio anche per sua, diciamo, natura, cioè per suo ecosistema. Certo. E quindi niente, le pratiche che propongono gli artisti che abbiamo invitato spaziano, come dicevo appunto, tra vari linguaggi, e ci sarà, da venerdì inizia King Cagliarie, Fare Rumore, di Violetta Cottini, che è una danzatrice performer, che, diciamo, porterà i partecipanti nella creazione di oggetti sonori totemici a partire da pratiche comunque somatiche, fisiche, un lavoro che riguarda molto anche appunto la ciò che è dimenticato, il rimosso. Elisa Sbaragli, un'altra danzatrice, in compagnia di Edoardo Sanson e Fabio Brusadin, che invece sabato ci portano in Ipergeo, che è un workshop di mappatura spaziale attraverso pratiche somatiche. Glauco Salvo invece, sound designer e ricercatore, propone e apre la sua ricerca, che si chiama Field Studies, a un laboratorio di indagine acustica dello spazio aperto, dello spazio del bosco, utilizzando dei dispositivi alimentati a batteria che appunto si adattano alla situazione di un bosco in cui corrente non c'è. Di qui Giulia De Val, altra ricercatrice legata sia al suono sia diciamo all'antropologia e alla ricerca su studi di genere, diciamo, propone in questo caso un workshop che su pratiche, diciamo, di riflessione sulla percezione della propria voce. In questo mi interessa tantissimo, tra l'altro. Sì, il workshop si chiama... Per chi fa radio è super interessante. Vero, vero. Sì. Reasons why I hate my voice. Exactly. No, infatti Giulia la voglio invitare qua, così a sentire se... Se odia la sua voce anche in diretta. E sì, appunto, lei approfondirà, diciamo, il tema sia con esercizi pratici che, diciamo, condividendo suoi studi teorici di, diciamo, appunto sulla voce in senso anche culturale. E poi abbiamo l'ultimo. Io poi mi ero messa a fare il calendario, ma poi ci siamo persi. Comunque avrà conclusione domenica con Luci Chio, che è un trekking urbano performativo che abbiamo organizzato insieme al comitato Rigenerazione e Non Speculazione, proprio perché una delle loro pratiche, diciamo, consolidate è quella di portare la cittadinanza nel bosco, attraversarlo attraverso i sentieri che loro settimanalmente curano e di cui fanno manutenzione. Quest'anno ne abbiamo aperto una parte insieme, appunto lo esploreremo domenica pomeriggio. L'abbiamo chiamato, insomma, trekking urbano performativo perché sarà anche luogo e tempo delle restituzioni di alcuni di questi workshop di cui vi abbiamo accennato adesso. Come funzionano questi workshop? Se uno vuole venire, cosa deve fare? Allora, naturalmente deve andare su exitfestival.it e trova tutte le istruzioni, cosa che verrà pubblicato su coxospaziale.blogspot.com domani. Comunque c'è il nostro sito, la nostra pagina Instagram e anche la nostra pagina Facebook, dove potete trovare appunto il link al sito. Potete inviarci una mail a exit2030@gmail.com e sui canali che citavo prima trovate anche un link a un questionario, un Google Form che potete compilare lasciando la vostra mail esprimendo le preferenze di partecipazione. E chiediamo una donazione consigliata per i workshop, perché comunque bisogna campare in qualche modo. Bisogna farlo campare questo festival. Esatto. E niente, però appunto la camminata Luci Chio è gratuita, così come anche la performance che a seguito della camminata chiuderà il programma, che è Polymorphism di Collettivo Clone, con la partecipazione della danzatrice Giulia Roversi, un collettivo di artiste multimediali che diciamo lavora sulle connessioni ibride tra corpo, tecnologia e spazio, prendendo le mosse dalle teorie di Donna Haraway. Ho capito. E poi altre cose che succedono al festival: il punto di raccolta, che è il nostro, diciamo, punto di accoglienza, uno spazio che abbiamo allestito in collaborazione con Checkpoint Charlie, e dove accoglieremo chiunque vorrà, diciamo, venirci a trovare tipo te. Ci prenderemo cura di voi, vi daremo dell'acqua, del cibo, faremo tante chiacchiere, e venerdì pomeriggio ci saranno degli altri laboratori più artigianali, diciamo manuali, sempre legati all'ecosistema del bosco. Dalle 4 alle 6 appunto troverete queste che abbiamo intitolato attività ecosistemiche, un laboratorio di terrarium sperimentali con Flora Design, in cui proveremo appunto a creare dei terrarium con dei materiali diciamo appositi, ma anche integrandoli e arricchendoli con elementi naturali che troveremo in loco. Porta Fortuna, che è un workshop, un laboratorio di flower printing su tessuto che terremo io e Olivia. Ah, cavoli, devo venire a fare quello. Assolutamente. Adesso poi tu sai perché, esatto. Perché mi serve, ma non lo dico in radio. E poi per concludere Helix, che è un laboratorio di manipolazione dell'argilla, ma anche appunto un'esperienza sensoriale condotta dalla scultrice Sara Cortesi, che ci porterà attraverso il tatto, insomma, ma non solo, avvicinandoci, insomma, ci avvicinerà alla vita delle lumache di terra. Wow, sì. Fantastico. Ti devo interrompere perché sono passati 42 minuti dall'inizio di Coxo e non abbiamo ancora messo un pezzo. No. E fra l'altro è appena uscito, oggi è uscito il nuovo disco di Jenny Owen Young, e chi mi ascolta sa che è la mia cantante preferita. Il disco si chiama Avalanche e adesso vi faccio sentire Knife Went In, che non è neanche ancora su YouTube. Se anche una che ha una voce come Jenny Owen Young può odiare la sua voce, no? Perché in realtà quasi tutti, no? Noi odiamo la nostra voce. Io ho terrore di riascoltarmi. Ah sì? Il workshop è proprio su questo. Assolutamente. Devi venire, assolutamente. No, assolutamente perché, vengo anch'io. Perché io faccio tanti interventi, anche vengo qua, però l'idea di riascoltarmi, cioè, mi terrorizza. E invece tutte le puntate di Coxo Spaziale sono riascoltabili. No, ma io non le riascolto. Su www.coxospaziale.blogspot.com. Holding On To You, Jenny Owen Young. Questa era appunto Jenny Owen Young con il nuovo disco che si intitola Avalanche, lo trovate su Bandcamp, e questa era Knife Went In. Adesso nelle prossime puntate vi farò sentire qualche altro pezzo. E invece adesso mi tocca di segarla, perché naturalmente qua il tempo stringe ed è ora di arrivare a l'angolo della menzione. Ovvero, cosa succede di artistico a Bologna questa settimana? Giovedì 28 alle ore 17 il Mambo, Museo d'Arte Moderna di Bologna, inaugura con la mostra Architettura e Fotografie nelle campagne dell'Emilia Romagna. Maura Savini, rilievi e progetti, Guido Guidi, fotografie. La mostra è a cura di Lorenzo Balbi ed è parte del progetto Architettura Rurale in Emilia Romagna, vincitore del bando Strategia Fotografia 2022. Questo è al Mambo in via Don Minzoni 14 a Bologna e appunto giovedì 28 alle ore 17. Poi abbiamo venerdì 29, oltre a Exit, che inaugura alle 13 nel bosco Prati di Caprale. Cioè, nel frattempo ho questa musica di sottofondo che ha deciso di piantarsi, per cui vabbè, non c'è niente da fare, vabbè. Diciamo che il nostro CD player non è proprio al massimo della forma. Senti qua, cos'è sta roba? Dicevamo alle 17 venerdì 29, scusate che non capisco perché continuo a fare sto rumore anche se ho abbassato tutto. Forse così va bene, ce l'abbiamo fatta. Dicevo, inaugura alle 17 venerdì 29 settembre Massimo Baldini con la mostra Italia Revisited, campionario per immagini. La mostra è a cura di Claudio Marra, il magnifico professore di fotografia che tutti abbiamo avuto, ed è alla sala Giulio Cavatta al primo piano nel complesso del Baraccano in via Santo Stefano 119 a Bologna. Non ho nessun'altra notizia su questa mostra, ma siccome è curato da Claudio Marra bisogna andare. Sempre venerdì 29 alle 18 invece la Galleria De Foscherari è lieta di invitarvi alla presentazione del catalogo della mostra Enctour Francesconi Siedlecki. La pubblicazione comprende un testo critico di Enrico Camprini e una serie di poesie di Federica Scaringello e costituisce un progetto grafico che mira a recuperare e riproporre formati editoriali significativi per la storia della galleria tra gli anni 60 e 70. Questa è la Galleria De Foscherari venerdì alle 18. Poi sabato 30 settembre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 Alchemilla aprirà i suoi spazi al pubblico in occasione della restituzione della residenza studio dell'artista Enei Gala. Saranno presenti l'artista e il curatore Enrico Camprini, che fra l'altro è lo stesso che ha fatto il testo critico, me ne sono accorto adesso, alla De Foscherari il giorno prima, per cui ha da fare in questi giorni Enrico. Questa è ad Alchemilla in via Santo Stefano 43 a Bologna. Sempre sabato a Palazzo d'Accursio abbiamo una mostra che si intitola Studio Segreto, anche questa è da non mancare, una mostra collettiva a cura di Sandro Parmeggiani con Lidia Bagnoli, Giorgio Brunelli, Mirta Caroli, Giordano Frabboni, Aldo Galgano, Paolo Gualandi, Claudio Loreti, Enrico Manelli, Carlo Mastronardi ed Enrico Mulazzani. Per chi ha fatto il liceo artistico negli anni passati non può mancare questa mostra perché è veramente piena di ex professori. La mostra continua fino al 19 ottobre ed è a Palazzo d'Accursio in Piazza Maggiore a Bologna. Dopodiché invece sempre sabato, ma stavolta alla mattina, alle 10.30 di mattina, abbiamo il piacere di proporvi un tour guidato alla mostra Canali Nascosti a Bologna nel Novecento. L'esposizione fotografica a cura di Maria Cecilia Ugolini e Stefano Pezzoli, con la quale ha da poco inaugurato l'Opificio delle Acque, che racconta le trasformazioni novecentesche dell'area nord-occidentale della città, per secoli caratterizzata da canali scoperti e dagli opifici che utilizzavano l'acqua per varie attività produttive. Non so, Milena, ci vuoi dire qualcos'altro di questa mostra? No, che è una mostra che dovete venire a vedere in qualche modo, perché vi fa vedere attraverso la fotografia, che è un elemento meraviglioso perché è in bianco e nero. Abbiamo fatto una grossa ricerca dagli archivi della Cineteca, archivi privati, no? E vedete una città mai vista. Ci sono due immagini. Visto che mi hai fatto la domanda sul canale di Reno, ci sono delle foto col canale di Reno aperto e normale, presente nella città al centro dove adesso ci sono le macchine, che fanno capire insomma quell'organizzazione. Poi ce n'è una che mi fa particolarmente perché ero già lì, 1972, quindi ero già lì abbastanza, della canale delle Moline, dove si vede solo del gran rusco, come diceva Bologna, e dei bagni a cielo aperto che ovviamente deponevano nel canale. Ecco, non è dunque, il fattore è una foto recente, capite, anche, no? 72, insomma. Eppure avevo 2 anni. Quindi quel processo che adesso vede invece la finestrella, l'affacciarsi, l'averla illuminata, andarci a cercare anche di vedere la bellezza della presenza dell'acqua in città, c'è stato perlomeno del lavoro utile e spero insomma che questo sia una risorsa che sia apprezzata ed entri nel cuore insomma delle persone. Quindi no, è una mostra molto bella e il posto è anche affascinante, c'è una bellissima ruota. Pensate che quello era l'opificio, ed era un opificio seicentesco dove era un opificio di pellacaneria, facevano le pelli. Quindi io sopra il mio ufficio c'ho un essiccatoio meraviglioso che fa vedere insomma quanto poteva essere quell'industria importante, con una grande ruota che abbiamo riproposto e che ancora gira. Ma insomma, vi stupirà. Questo è quello che posso solo dire. Perfetto. E questo è sabato 30 settembre alle 10:30. Dovete andare su opificiodelleacque.it per prenotarvi. E la visita guidata costa 8 euro a persona. In via Monaldo Calari 15, bisogna anche dire questa cosa qua. Che penso sempre che sia in via della Grada, invece no. Beh, lì vicino è l'angolo. Basta, così sono finite le menzioni e naturalmente in realtà abbiamo tutto il programma di Exit, per cui cosa ci manca? Cos'altro dobbiamo raccontare di tutte le cose? Naturalmente tutto il programma lo trovate su exitfestival.it, ma anche su coxospaziale.blogspot.com, con la registrazione di questa fantastica puntata da domani. E poi direi, aggiungo solo l'ultimo appuntamento, che è la coda del nostro festival, la conclusione, e sarà il 6 ottobre dalle 22 al Tank in via Emilio Zago 14. Sarà una festa conclusiva, un momento collettivo di ballo e celebrazione insieme, preceduto da una talk in cui noi Exit dialogheremo sul tema dell'arte indipendente in relazione a spazi abbandonati in Italia con altri due collettivi che abbiamo invitato a questa tavola rotonda, che sono Transumanza, attivi nelle zone rurali della Sardegna, e Tagete, che hanno appena concluso il loro primo esperimento e festival a Forte San Yekiddu vicino Messina. E quindi questo è un po' l'ultimo appuntamento. Inoltre aggiungo, se volete, se potete, abbiamo una campagna di crowdfunding attiva anche quest'anno sulla piattaforma Produzioni dal Basso per sostenere il lavoro del festival, insomma, la produzione, le artiste. Questo, quindi se potete sosteneteci e naturalmente troverete il link al crowdfunding sempre su coxospaziale.blogspot.com. ma sta cosa dell'arte indipendente negli spazi abbandonati è super interessante e fra l'altro anche super di moda, tra virgolette, negli artisti contemporanei giovani. Beh sì, per fortuna, almeno una moda una moda buona. Sì, beh, che dire, sì, è di moda, anche perché appunto secondo me la sensazione è molto anche da emergenti, che è difficile prendersi lo spazio di fare, dire il proprio nel proprio tempo, e questi spazi diciamo abbandonati o in abbandono, come ad esempio appunto i luoghi su cui lavorano e in cui lavorano i ragazzi e le ragazze di Transumanza, che sono alla fine delle abitazioni abbandonate nei borghi della Sardegna, comunque fanno parte del territorio, sono patrimonio in disuso e diciamo che neanche a prospettive di capitalizzazione, e anche questo è un elemento molto importante secondo me che la nostra generazione e questi progetti stanno portando, il fatto di voler abitare e condividere dei luoghi che non sono capitalizzati e neanche effettivamente capitalizzabili, che non vogliamo che lo diventino in qualche modo, che restino degli spazi di in qualche modo anche di libertà e che poi nel nostro caso specifico appunto si tratta anche di divulgare e tutelare un ecosistema che è una risorsa cittadina, cioè proprio civica e umana, che quindi ha anche con sé dei valori insomma anche ambientali no, in effetti mi fa piacere che siate tutti qui insieme, perché avete molto in comune, perché anche i canali di Bologna non sono capitalizzabili, o sbaglio? No, non lo sono e devo dire grazie per avermi fatto conoscere Exit. Mi piacciono le ragazze, pensano bene, agiscono bene. Anche a me, se fosse per me le chiamerei qui tutte le settimane, ma questo è un altro discorso. Molto bene, c'è qualcos'altro che volete aggiungere oppure siamo contenti così e ci possiamo salutare in tempo per far entrare i nostri colleghi di Panta 80 per la prossima trasmissione? Ma noi direi che ti ringraziamo come sempre dell'ospitalità e degli incontri belli che ci fai fare. È sempre un piacere. E a presto. Assolutamente, no, io visto voglio che torniamo ogni tanto con una cadenza abbastanza regolare. Abbastanza regolare. No, la prossima volta io assolutamente voglio Giulia De Val qui con voi a raccontarci perché odia la sua voce. Bene, e io ringrazio tantissimo naturalmente la presidente, tu ti fai chiamare la presidente o la presidentessa? Ci ho mai pensato. Ok, molto bene. Milena va bene. Grazie per l'invito. Milena Naldi, che oltre a fare questo, fra l'altro fai un sacco di altre cose, ma magari se vuoi ti facciamo una puntata apposita per tutto il resto delle cose che fai. Va bene. Ok. Accetto la sfida. Allora la promessa è che tornerai, molto bene. Naturalmente ringraziamo le meravigliose Olivia e Lucia di Exit e di ASAP APS che trovate su Instagram e niente, naturalmente vi aspettiamo tutti sotto il canale oppure ai prati di Caprara. Grazie Stefano. Grazie a voi. Io ero Stefano W. Pasquini, salutiamo anche la nostra fantastica Mia da Schio su Piei che ci ascolta da casa perché è malata, ma la risentiremo forse lunedì prossimo. E questo era Coxo Spaziale e come al solito vi saluta con le fantastiche parole del nostro direttore che ci saluta così. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. E la sigla. Quindi ci piacciamo oppure no? Veramente una tamarrata spaventosa. Sangue nella dance floor, ci ballerò, anche se è soltanto un altro stupido. Sexy boy, io ci sto. E domani non lavoro, quindi ce ne siamo distesi. Sopra soldi già spesi. Colazioni francesi. Con gli avanzi di ieri. Se non lo facciamo, me lo immagino. Siamo distesi, sopra soldi già spesi, colazioni francesi, con gli avanzi di ieri, se non lo facciamo me lo immagino, dovrei, non dovrei dirti che ho visto lei, che bacia a lui, che bacia a lei, che bacia a me, mon amour, amour. un'idea. Idea.